Letture di Radio 24. I due nuovi titoli Fiat aprono con il botto il nuovo anno a Piazza Affari. Risultati decisamente positivi per i neonati titoli Fiat e Industrial, nati dallo sdoppiamento del vecchio Fiat Group. Ma la partita resta tutta da giocare, specialmente contro la lenta ripresa dei mercati. Quali sono le nuove sfide per il Lingotto? Quali prospettive si aprono per la storica azienda torinese e per le economie del nostro paese? L'editoriale di Giuseppe Berta sul Sole 24 Ore fa il punto sulla situazione. Con la quotazione distinta in borsa di Fiat e di Fiat Industrial, si è compiuto ieri, oltre che un passaggio determinante nell'assetto d'impresa, una trasformazione destinata a incidere sulla struttura e sul carattere dell'industria italiana. Scendendo il comparto delle autovetture da quello dei veicoli industriali e delle macchine movimento terra, la Fiat ha definitivamente abbandonato la propria configurazione novecentesca e insieme con essa un modello di crescita fondato sull'aggregazione di attività non omogenee. In questo senso, il nostro paese dismette, probabilmente in via definitiva, la forma della conglomerata, che aveva contraddistinto la formazione e lo sviluppo del gruppo Fiat, facendone quel formidabile aggregato di capacità economica, di potere e di influenza sociale che tutti gli italiani hanno conosciuto. Quella forma di impresa era collegata alla struttura proprietaria dell'azienda, al rilievo di una famiglia che ne ha reso così peculiare l'evoluzione. Dire Fiat, per tutto il secolo scorso, ha significato evocare una realtà che non era soltanto economica e produttiva, perché era in grado di esercitare un ruolo pubblico duttile e pervasivo, connesso alla varietà della sua presenza all'interno della società italiana. Questa storia, fuori dall'ordinario, che ha scandito il percorso dell'Italia lungo il XX secolo, è giunta a un punto d'approdo, come ha detto Sergio Marchionne alla Borsa di Milano, in coincidenza con l'avvio di una storia sicuramente diversa, tutta da scrivere. Non è un caso che l'artefice della scissione della Fiat sia anche il manager che dal suo arrivo a Torino nel 2004 ha potuto avvalersi di un nuovo modello di governance aziendale. In precedenza, la forte personalità di Giovanni Agnelli aveva reso più sfumate e incerte le linee di demarcazione fra la proprietà e il management. Marchionne, subentrato alla Fiat nel momento in cui la sua condizione era più precaria e la sua sorte incerta, ha potuto operare in un quadro in cui è diventata netta la separazione delle responsabilità e delle sfere di influenza fra l'azionista di riferimento e il manager a cui questi ha concesso la propria fiducia. I passi successivi sono stati resi possibili dal profilo manageriale assunto dalla Fiat, secondo un cambiamento analogo a quello di un'altra grandissima impresa familiare, la Ford. Oggi, Alan Mulally, che ha riportato la Ford, unica tra le case di Detroit, a una robusta posizione di mercato, senza ricorrere agli aiuti del governo americano, ha la stessa libertà d'azione di Marchionne. Segno che la forma proprietaria non costituisce più un vincolo per la guida manageriale delle imprese dell'auto, le quali tendono tutte a muoversi secondo una medesima logica. Proprio tale logica ha condotto alla scissione della Fiat in due tronconi. Se l'obiettivo diventa la valorizzazione di ogni specifico business nella cornice di una crescita globale, allora conviene dare a ogni settore la libertà di movimento che gli occorre per potenziare la propria capacità di sviluppo. In altri termini, se l'auto ha fatto da battistrada perseguendo l'alleanza con la Chrysler, ora tocca agli altri settori muoversi con la stessa autonomia, ricercando le condizioni per acquisire anch'essi maggiori dimensioni su scala globale. Questa strategia proietta inevitabilmente verso il mondo quello che fino all'altro ieri è stato il gruppo Fiat. È significativo che l'ultimo atto di Marchionne del 2010 sia stato il varo del nuovo stabilimento per la produzione d'auto in Brasile. La scacchiera su cui dovranno giocare tutte le attività facenti capo alle due Fiat di oggi è quella globale e costituisce un grave errore di prospettiva attardarsi, come si fa ancora in Italia, a ragionare isolando dal resto ciò che avviene entro i nostri confini nazionali. D'ora in avanti sarà bene abituarsi a considerare le cose da un'altra angolatura, per esempio valutando congiuntamente la dinamica del mercato dell'auto in Europa e in America, perché l'una è destinata a interagire con l'altra e a condizionarla. In questo senso, Marchionne sta mettendo fine a quella anomalia che ha reso la Fiat un'azienda diversa da tutte le altre, quasi un soggetto politico prima ancora che economico, un potere forte della nostra costituzione materiale. La sua scommessa, come si è visto Piazza Affari, avrà come esclusivo metro di misura il successo sui mercati mondiali, senza passare più dal confronto con la politica e gli interessi organizzati dell'Italia. Chi oggi lamenta le difficoltà che nell'immediato dovranno essere sopportate nel nostro paese, omette il vantaggio derivante da una radicale distinzione tra economia e politica, un timbro di chiarezza da cui l'Italia ha soltanto da guadagnare nel lungo periodo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale L'uomo che parlava ai mercati di Giuseppe Berta, pubblicato da Il Sole 24 Ore di martedì 4 gennaio. Letture di Radio 24. È già cominciata la stagione della caccia e già si contano le vittime. Partono i saldi in tutte le città italiane e l'obiettivo è accaparrarsi la migliore occasione per le proprie tasche e le proprie esigenze. Ma spesso la quantità di capi è talmente elevata che si rischia di fare confusione. Nessun problema, basta affidarsi a qualche consulente. I sogni non vanno in saldo. È bene ricordarlo prima di uscire di casa con la carta di credito fra i denti e fantasie di conquista esagerate. Meglio un atteggiamento più realista e sano. Un po' di ottimismo va bene, ma niente ingenuità. Quindi, se avete sognato la borsa Peekaboo di Fendi o una Chanel vera, non sperate di vederla col cartellino sbarrato sulla cifra mostruosa che sapete, sostituita da un prezzo equo e solidale. Detto questo, ispiratevi pure al sogno e cercate quello che più gli assomiglia in termini di qualità e allure. Soprattutto, non fissatevi col must di stagione, che probabilmente è già esaurito, e se non lo è e lo trovate a metà prezzo, vuol dire che il prossimo anno non lo vorrà più nessuno. Mirate ai long seller, alle cose che non passano di moda, che non sono necessariamente i classici, ma non certo i trend più visti. Restando in tema borse, per esempio, non lanciatevi né sul maxi né sul mini, ma restate sulla media dimensione e sulle forme vintage. Bene la bisaccia, la tracolla, perfette tutte le simil Gucci di una volta. Se vi manca la pochette da sera, è il momento di comprarla. Dalle borse alle scarpe, con buona pace delle più bassine, pare che tocchi proprio scender giù dai tacchi. La tendenza punta verso il piatto e se in scarpiera si hanno solo zeppe, sarà meglio attrezzarsi. Non investite poi lo stipendio in un paio di stivali, perché è un trend in ribasso, mentre continua quello del tronchetto. Bene invece accaparrarsi un bel paio di galosce, perché viaggiano col trend climatico delle piogge torrenziali e quindi vi verranno spesso utili. Sempre con un occhio all'inverno prossimo, lasciate perdere gli stivaloni scamosciati a zampa d'orso che sono durati già troppo e investite ancora sul piumino, non più lucido però opaco, e sul cappotto di buon taglio. Le pellicce, vere e false, sono una tendenza forte, anzi fortissima, tanto che ormai sono sdoganate anche per le sere estive e da crociera, e il pezzo da trovare è il collo togli e metti. Avevate in progetto di comprarvi un abito? Anche quello pare sia durato troppo e ora torna allo spezzato camicetta gonna. In versione portafoglio o gonna pantalone sarà il must della primavera e anche dell'inverno prossimo. Se proprio volete l'abito da sera, astenetevi dal lungo perché si torna al ginocchio. Finora si è parlato di saldi al femminile perché le donne sono più esposte alle trappole da trend da una stagione e basta, mentre le tendenze maschili durano di più. Per tutti vale l'accorgimento di comprare capi di qualità e di peso medio che si possano usare in tutte le stagioni. Quanto agli stili, quest'anno andrete sul sicuro qualsiasi cosa vestiate di gusto oriental chic. Dal kimono giapponese al kipao cinese, alle giacche alla Mao, alle sete e ai broccati, ogni dettaglio è buono per essere al passo con lo spirito e soprattutto l'economia del tempo. Se siete donne e nella vostra città i saldi non sono ancora iniziati, approfittate di questi ultimi giorni per studiare. C'è un libro uscito non da molto, si intitola The 100 capi e accessori che una donna di classe deve possedere, di Agostini, e vi darà le dritte giuste per non portarvi degli alieni nel vostro guardaroba. Altrimenti, investite nel consulto di un personal shopper come Anna Maria Lamanna a Milano. Io farei investire sul cashmere uomo e donna, maglione per lui, mantella o poncio per lei. E inviterei a stare alla larga dai negozi con le lunghe file. Ancora confuse? Allora, lasciate perdere l'abbigliamento e dedicatevi al restyling della biancheria di casa. La fiera del bianco inizia con i saldi e lì di solito si fanno meno danni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Alla larga dalle lunghe file, meglio puntare sulla qualità, di Sara Ricotta Vozza, pubblicato dalla Stampa del 3 gennaio. L'argomento saldi sarà affrontato oggi anche dal programma 24 Mattino, in onda dalle 8.30 su Radio 24. Il 2011 sarà un anno avaro di festività infrasettimanali, ancora di più del 2010 ormai passato. Brutte notizie quindi per tutti i lavoratori che dovranno stare in apnea fino a giugno, senza vedere troppi ponti festivi. Oltre ad essere un problema per chi desidera un po' di relax, la mancanza di weekend lunghi sarà un problema anche per l'economia del paese. Vediamo il perché in questo articolo di Paola Coppola. Calendario alla mano, chi sta pianificando una breve fuga, una vacanza a mordi e fuggi, si rassegni. Il 2011 sarà quasi senza ponti. Se l'anno appena archiviato è stato avaro, quello che comincia lo è ancora di più dal punto di vista delle festività infrasettimanali, che con l'aggiunta di uno o due giorni di ferie permettono intermezzi di relax nella routine lavorativa. Ci sono appena quattro occasioni per chi ama le mini vacanze al mare o raggiungere una città d'arte. Solo sette festività non cadono di sabato o domenica, ma tre sono lunedì e costringeranno questi viaggiatori a ripiegare su un fine settimana lungo. L'anno si apre con il ponte della Befana, ma per l'unico ponte di primavera si deve aspettare il 2 giugno. Al netto delle ferie ci sarà una maratona lavorativa fino al 1 novembre e al giorno dell'Immacolata. Fine. Di fatto nel 2011 si lavorerà di più, si produrrà di più. Non sarà un bene per il PIL né per l'economia del paese, perché con meno ponti si consumerà di meno, avverte il sociologo del lavoro Domenico De Masi. Meno vacanze, meno consumi culturali come cinema e teatro. Non saranno intaccati i 220 giorni lavorativi di quel 75% della popolazione che fa lavori esecutivi, ma ne faranno le spese e i consumi di microturismo con ripercussioni su un settore che oggi produce l'11% del PIL, avverte. Questo calendario non ci aiuterà ad alleviare i contraccolpi della crisi che è dei consumi, a causa della contrazione dei redditi e della paura a spendere, non di sovrapproduzione. Per il sociologo che ha teorizzato l'ozio creativo, però, l'anno appena iniziato può diventare un esercizio per prepararsi al prossimo futuro, quando saremo costretti a rimodulare i consumi per essere meno spreconi. Non è una bella notizia per gli amanti delle fughe brevi. Agenzie di viaggi e tour operator dovranno adattarsi al calendario con soluzioni alternative. Secondo le stime di Federalberghi, i cinque veri ponti turistici, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre, muovono circa 28 milioni di italiani, con un giro d'affari vicino ai 7 miliardi di euro. Solo quelli del 25 aprile e del 1 maggio, spariti nel 2011, valgono quasi il 50%. A dover rimettere in discussione il piacere di un ponte, poi, è metà della popolazione. Il 49% degli italiani ama le vacanze mini perché non può staccare di più dal lavoro. Sono un modo per coltivare interessi e conoscere posti diversi, costano meno e sono più accessibili. Occasioni per partire con gli amici o i colleghi, o per un'evasione dai doveri familiari per concedersi un momento romantico con il partner. Almeno due volte l'anno per chi ha un reddito medio-alto, dicono gli addetti ai lavori. Nel 2011 le offerte saranno ripensate in funzione del weekend allungato e spalmate su tutto l'anno, dice Andrea Giannetti, presidente di Confindustria Asso Travel. Si può ipotizzare che chi non ha rinunciato a partire durante i ponti nel 2010 allungherà le vacanze estive o si concederà qualche giorno in più a giugno prima delle ferie. Le alternative ci sono, dice Andrea Costanzo, presidente Fiapet Lazio. Gli italiani forse rinunceranno a mete a corto raggio come le Baleari, per le spiagge italiane, e potranno riscoprire il territorio in località dove il relax di un centro termale si accompagna con una cena fuori con un buon rapporto qualità-prezzo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo 2011 sarà un anno senza ponti, fino a giugno maratona in ufficio, di Paola Coppola, pubblicato da Repubblica di lunedì 3 gennaio. Gli elettrodomestici spenti o in stand-by consumano l'11% di tutta l'elettricità utilizzata durante l'anno. È quello che rivela un'indagine europea sui consumi energetici che ha prodotto una direttiva comunitaria che prevede per gli apparecchi esposti nei punti vendita di rimanere spenti o in stand-by sotto un certo limite. Ma quanto si fa sentire nella bolletta questo spreco energetico? Ci risponde un articolo di Caterina Pasolini su Repubblica. Stand by o non stand by, il consumo corre ininterrotto sul filo, imprevisto e sommesso, silenzioso, impercettibile. Tranne che a fine mese, quando la bolletta, nonostante computer, TV, frigo, radio o lavatrice siano stati usati poco o niente, diventa improvvisamente salatissima. Salatissima e amara come il nostro stupore di utenti a volte distratti, convinti, avendoli lasciati in stand-by, di aver risparmiato. Persuasi, erroneamente, che se uno tiene spento o non usa i videogame, non paga energia. Tutto sbagliato, da rifare, cambiando comportamenti e con un occhio attento ai saldi di gennaio, per evitare di comprare scontato un prodotto che pagheremo in realtà ben più caro in bollette di energia, perché il 30% non è a norma. A dirlo, sono studi fatti a livello europeo da diverse università in collaborazione col Politecnico di Milano e Lega Ambiente, che sul sito viviconstile.org detta una sorta di vademecum sullo stand-by, su come risparmiare in casa e fare acquisti senza pericoli. Secondo un'indagine europea, infatti, le apparecchiature collegate in rete, spente o non in uso, consumano comunque l'11% di tutta l'elettricità che usiamo durante l'anno, per una spesa di ben 60 euro a famiglia. Una dose di kilowatt pari all'energia prodotta da 8 grandi centrali termoelettriche. Per evitare consumi eccessivi che finiscano per inquinare, dal 2010 una direttiva europea prevede che gli apparecchi in vendita, quando sono in modalità spenta o stand-by, non debbano superare un watt di potenza assorbita. La realtà è ben diversa, il 30% è fuori legge. Lo dice un'inchiesta del Politecnico che nell'ambito del progetto europeo di monitoraggio di politiche energetiche Salina ha analizzato 6.000 prodotti in vendita. Come dire, si vendono macchinari che fanno spendere più del previsto, che consumano più di quanto la legge consenta. I più voraci, anche spenti, sono le fotocopiatrici, stampanti laser, decoder della nuova TV digitale, i router per collegarsi in rete, i televisori, soprattutto i videogiochi e persino le macchinette del caffè espresso che hanno consumi enormi in stand-by, pari a 15 euro l'anno. Ma il cahier de doléances non finisce qui. PlayStation 3 e Xbox, racconta Lega Ambiente, sia da spenti che da accesi assorbono quasi la stessa quantità di energia, consumando 5 volte di più di un frigorifero efficiente. Lasciarle accese può costare 250 euro l'anno. Tra i televisori, alcuni modelli con grande schermo consumano anche il triplo rispetto a un TV tradizionale e con lo stand-by acceso usano in un anno tanta energia quanto 3 lavatrici tra le meno efficienti. Comportamenti che significano centinaia di euro sprecati. Lasciare il computer acceso 24 ore al giorno può costare 130 euro l'anno, cui vanno aggiunti altri 20 se si lasciano accese anche le casse e 43 euro se non si spegne il monitor LCD. Questi i risultati dell'indagine del Politecnico su base europea in Italia? Le cose non vanno meglio, conferma Andrea Poggio, vice direttore di Lega Ambiente, visto che il nostro paese non ha fatto nulla per favorire l'adozione della direttiva. Così c'è il rischio che durante i saldi di gennaio ci si porti a casa prodotti che iperconsumano, fuori norma, convinti invece di fare un affare. Bisogna quindi leggere bene le etichette. Ce n'è una proprio dedicata al consumo energetico. Per gli elettrodomestici che si hanno già a casa, il consiglio è invece di acquistare una bella ciabatta dotata di interruttore e ricordarsi di spegnerla, perché il vero problema sono quegli elettrodomestici che tu credi di aver spento e quindi di non consumare e che invece, anche non attivi come i videogiochi, usano energia alla grande. Spegnere per risparmiare, spegnere per non inquinare. Chiudendo gli apparecchi quando non si utilizza internet, si risparmierebbero 1 miliardo in Europa e soprattutto 3,5 milioni di tonnellate di CO2 emessa per produrre l'energia necessaria. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Così lo stand-by manda in rosso la bolletta di Caterina Pasolini, pubblicato da Repubblica di martedì 4 gennaio.